Ai, ai, ai. Well, it is going to be a very short message this morning. Bene, questo sarà un messaggio, una predica molto breve. Jesus loves you. Gesù vi ama. Amen. We have loved being with you. Abbiamo davvero amato il tempo che abbiamo potuto passare insieme. It's been a wonderful gift to be with such passionate followers of Jesus. Essere qui con dei seguaci di Gesù così appassionati è stato davvero un regalo meraviglioso. And I know that I have been encouraged and learned so much from you. E io so di essere stato incoraggiato da ognuno di voi e ho imparato tanto da ognuno di voi. And what we're going to do is we're going to leap straight into the talk now. Quello che faremo è che incominceremo direttamente a predicare. Jesus is alive today and he wants to do the same things he did 2000 years ago. Gesù è vivo oggi e lui vuole fare le stesse cose che ha fatto durante il corso della storia. But 2000 years ago he was limited to his human body. Ma 2000 anni fa lui era limitato dal suo corpo umano. But today he wants to continue his ministry through many bodies who together make up the one body of Christ. Ma oggi lui vuole continuare il suo ministero attraverso tanti corpi che insieme formano il corpo. Now, sometimes when people look at me and they think, oh my goodness, in for God to use me, do I have to be as good looking as him? Qualche volta spesso capita che le persone mi guardano e pensano, mamma mia, se Dio vuole usarsi di me, devo essere bello quanto lui? As well built as he is. Così in forma come lui è? The answer? La risposta? Is no. È no. Do you know what I've discovered over the years? Sapete quello che ho scoperto nel corso degli anni? God wants to use ordinary people like me and you to do his ministry. Dio si vuole usare di persone ordinarie come me e come te per fare la sua opera. The whole ministry of Jesus is for the whole church of Jesus. E tutto il ministero di Gesù è per tutta la chiesa di Gesù. God has no grandchildren, only children. Dio non ha nipoti, ha solo figli. And if you think that, if you don't realize that God uses anybody, all you have to do is look at the disciples. E se non ti sei ancora reso conto che Dio si usa davvero di chiunque, allora ti basta solo leggere la Bibbia, la storia dei discepoli. You know, in those days, the rabbis would go to the rabbinical schools and they would choose the best of the best of the best and say, come and follow me and be my disciple. Sapete, all'epoca il rabbì sceglieva i migliori dei studenti affinché potessero seguirlo e fare il suo ministero. Jesus didn't do that. Ma Gesù non ha fatto questo. He went to the failures. Lui è andato a chi falliva. He went to the fishermen. È andato dai pescatori. And he said, I want you and you and you, come follow me. E ha detto, io voglio te, voglio te, voglio te, vieni, seguimi. And look at the ones he chose. E io guardo a quelli che ha scelto. There was Peter, whenever he opened his mouth, he put his foot in his mouth. C'era Pietro che ogni volta che apriva bocca sbagliava a parlare. There were James and John, who were nicknamed Sons of Thunder. C'erano Giacomo e Giovanni che erano soprannominati i figli della tempesta, del tuono. Not because they had digestive problems. E non perché avevano problemi digestivi. But almost certainly because they had bad tempers. Ma molto probabilmente perché il loro temperamento non era dei migliori. Then there was Simon the Zealot. E poi c'era Simone, colui che era zelante. Zealots in those days were freedom fighters. They fought against the occupying Roman army for Israel's freedom. E questi erano dei combattenti che combattevano per la conquista dell'impero romano. In other words, he was a terrorist. In altre parole, era un tipo di terrorista. One man's freedom fighter is another man's terrorist. Uno che ha lavorato per la libertà era in realtà un tipo di terrorista. Then there was Matthew, the tax collector. E poi c'era Matteo, il collettore di tasse. Who was a traitor to his own people. Che era un traditore per la gente d'allora. Can you imagine the conversations late at night after Jesus went to bed between Simon the freedom fighter and Matthew the traitor? Potete immaginare le conversazioni che potevano avvenire una volta che Gesù andava a dormire tra Simone, colui che combatteva per la libertà, e Matteo, colui che era visto dalla gente come un nemico. Then there was Thomas. E poi c'era Tommaso. Who couldn't believe a word anyone ever said. Che non credeva a una parola di quello che ascoltava. Oh, it's all gone wrong again. It's all gone wrong again. Oh, sta andando di nuovo tutto a rotoli. Well, we may as well go and die with him. Oh, allora è meglio che andiamo e moriamo con lui. No, he can't have risen from the dead. No, non è possibile che sia resuscitato. I mean, there's one of those in every church, isn't there? Ce n'è uno di questo tipo in ogni chiesa. The only one of the disciples who had any get up and go, who had any oomph. L'unico discepolo che era pronto a correre il rischio, che era in prima linea, was Judas. Era Giuda. And that's who he chose. E questo è lui è colui che Gesù ha scelto. And he changed the world through them. E Gesù ha cambiato il mondo attraverso questi discepoli. And I'm so glad he did that. E io sono così felice che lui l'ha fatto. Because it gives me hope. Perché questo dà a me speranza. God wants to use ordinary broken people to do his work. Dio vuole usarsi di persone ordinarie che soffrono per cambiare il mondo. Because he wants to put his treasure in jars of clay. Perché lui vuole mettere il suo tesoro in contenitori d'argilla, in vasi d'argilla. Because his power is made perfect in our weakness. Perché la sua potenza è perfetta nella nostra debolezza. And you see that Jesus did that. He, do you realize how much he did his ministry with the disciples and not at the disciples. E lo vediamo che Gesù lavorava e il suo ministero lo viveva con i discepoli e non verso i discepoli. I mean, when he raised Lazarus from the dead. Ricordiamo quando ha resuscitato Lazzaro dalla morte. Did you know that Jesus only did one third of that miracle? Sapete che Gesù ha fatto un terzo di quel miracolo? Who rolled the stone away in front of the tomb? Chi ha tolto, chi ha spostato la pietra dalla tomba? The disciples. L'hanno fatto i discepoli. Who took Lazarus' grave clothes off? Chi ha tolto le bende dal corpo di Lazzaro? The disciples. L'hanno fatto i discepoli. I imagine the conversation afterwards went something like this. Mi piace immaginare quali sono state le conversazioni dopo il tutto. Jesus, did you see the way we rolled the stone away? Gesù, ma hai visto come abbiamo spostato la pietra? Did you see Andrew's biceps? Hai visto i muscoli di Andrea? I mean, and the way we took the grave clothes off. È il modo, la cura con la quale abbiamo tolto le bende da Lazzaro. Speed, efficiency and neatness. Siamo stati veloci, puliti ed efficienti. Oh, and by the way, thank you for your contribution, Jesus. Gesù, grazie per il tuo contributo, comunque. The Lazarus come forth bit, that was pretty good. Quel pezzo dove Lazzaro è uscito dalla tomba, grazie. We make a great team, Jesus. Siamo veramente una squadra molto forte, Gesù. Only he can say, Lazarus, come forth. Solo Gesù poteva dire, Lazzaro, esci. Only he can bring life where there's death. Solo Gesù poteva portare e può portare vita dove c'è morte. But he calls us to roll stones away. Ma lui ci chiama a muovere pietre. He tells us to take people's grave clothes off that bind them. Lui ci chiama a spogliare le persone dei loro vestiti di morte. We get to be involved. Noi abbiamo l'onore di essere coinvolti. My favorite miracle. Il mio miracolo preferito. Has to be the feeding of the 5,000. Deve essere la moltiplicazione dei pani e dei pesci quando Gesù ha dato da mangiare a 5,000 persone. Not just because it involves food in vast quantities. E non è solo perché si parla di cibo. But I love the way Jesus did that miracle. Ma mi piace il modo in cui Gesù ha operato questo miracolo. Do you know it's the one miracle that's in all four gospels. Ed è l'unico miracolo che è riportato in tutti e quattro i Vangeli. And I'm going to describe what I think happened by bringing the four stories together. E io vorrei descrivere questo miracolo, come penso che sia accaduto, unendo un po' le quattro narrazioni di ogni Vangelo. The disciples had been ministering with Jesus on one side of the Sea of Galilee. Quindi ci sono i discepoli che erano coinvolti nel ministero con Gesù dal lato della da una parte del One side of the Sea of Galilee. Sulla riva del mare di Galilea. But they were excited. E loro erano molto entusiasti. Because tomorrow was their day off. Perché il giorno dopo sarebbe stato il loro giorno libero. And they were going to hang out with Jesus and have a holiday. E quindi avrebbero passato del tempo libero con Gesù come una vacanza. And they were going to get in the boat and go to the other side and go to the Sea of Galilee resort. E quindi si dovevano mettere in barca, andare dall'altra riva in questo resort. Play some golf with Jesus. Avrebbero giocato a golf con Gesù. And they were excited. E quindi, insomma, erano contenti. They get in the boat. Quindi montano in barca. They go to the other side. Arrivano all'altra riva. And they're saying, "Oh, we're really tired." E dicono, "Mamma mia, siamo molto stanchi." We've had enough of the crowds. Ne abbiamo abbastanza delle folle. It's just going to be us and Jesus on holiday. Adesso siamo in vacanza solo noi e Gesù. But when they land on the other side, they are horrified. Ma quando raggiungono l'altra riva, rimangono orrificati. Because 5,000 men have been jogging on the outside of the Sea of Galilee. Perché lì si trovano davanti a 5,000 persone, tutte attorno alla riva. And they're thinking, oh no. E lì sono lì che pensano, oh no. There's 5,000 men here. Ci sono 5,000 uomini qui. We're on holiday. Ma noi siamo in vacanza. We better tell Jesus to send them away. È meglio che diciamo a Gesù di mandare tutte queste persone via. Because we're very tired and it's our holiday time. Perché è la nostra vacanza e noi siamo molto stanchi. And then I suspect one of them said, e io penso che poi ad un certo punto uno dei discepoli ha detto, wait a minute, you know Jesus, we can't go up to him and say, send them away, we want to rest. Aspetta un attimo, noi lo conosciamo Gesù, non possiamo andare e chiedergli di mandare via tutte queste persone. He'll say something like, my father is always at work and so am I. Lui ci direbbe qualcosa del tipo: mio padre è sempre a lavoro e quindi lo sono anch'io. No, we've got to be clever. No, dobbiamo essere furbi. We get him on his weak point. Noi lo dobbiamo prendere, dobbiamo riconoscere il suo punto debole. His compassion. La sua compassione. So some of them went up to Jesus. Quindi uno dei discepoli raggiunge Gesù. And they said, "Oh Jesus." E dice Gesù. We see the crowds. Vediamo la folla. Like sheep without a shepherd. Sono come pecore senza un pastore. Our hearts go out to them. Il nostro cuore è pieno d'amore per loro. We want nothing more than to spend the whole day serving them. Noi non vorremmo altro che spendere tutta la giornata servendo queste persone. Forget the holiday. Dimentichiamoci della vacanza. But Jesus, we've just had a thought. Ma Gesù, abbiamo appena avuto questo pensiero, quest'idea. They're gonna get hungry soon. E molto presto tutte queste persone avranno fame. And McDonald's is closed. E McDonald's è chiuso. Oh, we don't want them to be hungry. Oh, davvero non vogliamo che loro si ritrovino affamati. Even though we would love to serve them. Nonostante vogliamo servire ognuno di loro. For their sake, we think you should send them home. Per il loro bene. Secondo me dovresti mandare tutti quanti via. Now, I love Jesus. E a me piace troppo Gesù. And this is great. E questo è fantastico quello che succede. Do you know what he said to them? Sapete quello che lui ha detto ai discepoli? He said, "You feed them." E ha detto, voi date loro da mangiare. And the best bits in the Bible are the bits in brackets. E c'è un qualcosa in parentesi scritto sulla parola. And it says there, he said this to test them, for he already knew what he was going to do. C'è scritto che Gesù ha detto ai discepoli questo per metterli alla prova, perché lui sapeva già cosa poi avrebbe fatto. So he was playing with them. E quindi stava giocando con i discepoli. And can you imagine? What did he say? E immaginiamo i discepoli, che cosa ha appena detto? We've got to feed them. Noi dobbiamo dar da mangiare. And then they went back to the others. E quindi i due ritornano con raggiungono gli altri discepoli. How did it go, boys? Okay, com'è andata? Well, it's a bit strange, really. In realtà si è voltata strana la situazione. He said we've got to feed them. Gesù ha detto che dobbiamo dare noi da mangiare. We've got to feed them. How are we going to feed them? Did you tell him McDonald's is closed? Noi dobbiamo dar loro da mangiare. Ma come? Ma gli hai detto che il McDonald's è chiuso? We told him McDonald's is closed. Eh sì, gliel'abbiamo detto che il McDonald's è chiuso. Even if McDonald's was open, 9 months' wages wouldn't feed this lot. We haven't got any money. Ma neanche se McDonald's fosse aperto, potremmo dare loro da mangiare. Ci vogliono 9 mesi di stipendio. Well, someone's going to have to go back and tell him we can't feed them. Bene, allora uno di noi deve andare di nuovo da Gesù e deve dirgli che non possiamo dar loro da mangiare. Well, I'm not telling him. Io non vado. I'm not telling him. No, io non vado. Do you know what I think happened next? E sapete cosa penso sia successo? Peter looked at his little brother Andrew and he said, "Andrew, you're the youngest, you tell him." Pietro ha guardato negli occhi di Andrea, il suo fratello minore, ha detto, "Andrea, tu vai. Adesso vai tu." And Andrew goes off in a huff. Do you have huff? In a sulk. E Andrew incomincia, è un po' irritato da tutto questo. It's not fair. Ah, non è giusto. It's always me that's got to tell him. Sempre io devo fare queste cose. They always pick on me because I'm the youngest. Scelgono sempre me per queste cose scomode che sono il più giovane. And then while he's sulking. E quindi mentre si lamenta. He suddenly sees a little boy. Ad un certo punto, ad un tratto vede questo ragazzino. And he goes up to him. E quindi si avvicina a lui. And he says, "Hello, little boy." E dice, "Salve, giovanotto." And the little boy says, "Hello." E il ragazzino risponde, "Ciao." Because his voice hasn't dropped yet. Perché deve ancora avere, sta crescendo. And Andy says, "What have you got there, little boy?" E Andrea gli chiede, "Che cosa hai lì, tu, giovanotto?" A picnic. Oh, il mio picnic. A picnic. Un picnic. Yes. Yes. Did your mummy make that for you? L'ha preparato tua madre per te? Yes. Sì. What's in the picnic? E vediamo che cosa c'è in questo picnic. 5 sandwiches and 2 sardines. 2 sardine e 5 sandwich. 5 sandwiches and 2 sardines. 5 sandwich e 2 sardine. Little boy. Giovanotto. Yes. Sì. Are you going to eat that all on your own? Davvero devi mangiare tutto questo solo tu? Yes. Sì. Little boy. Giovanotto. What's that over there? Che cosa c'è lì? It doesn't make it absolutely clear in the original Greek, but I think Andrew stole that little boy's picnic. Non è proprio chiarissimo nel testo originale in greco, ma io penso che Andrea abbia rubato quel picnic dal giovanotto. And then they're all gathering round Jesus. E quindi poi si avvicinano tutti a Gesù. And Jesus says, "Well, I told you to feed them. What have you got?" E Gesù dice, "Bene, allora vi ho detto di dar da mangiare a questa folla. Che cosa abbiamo qui?" And 11 disciples look down at their feet. E i discepoli guardano giù. E... And then Andy says, abbassano lo sguardo e Andrea dice, "I've got something." Io qualcosa ce l'ho. And the others look at him. E tutti quanti lo guardano. And then Andrew takes to Jesus this little boy's picnic. E quindi vediamo Andrea che si avvicina a Gesù e gli dà il picnic. And the others are laughing at him. E tutti gli altri incominciano a ridere di lui. You silly idiot. How's 5,000 men gonna eat that? Ma che idiota che sei. Come fai a dare da mangiare a 5,000 persone con un picnic? What's wrong with you? Ma che cos'è che non funziona? But Jesus shocks them. Ma Gesù li sciocca. He says, "That'll do." E lui dice, questo funzionerà. I can use that. Io posso usare questo. And then he takes the picnic. E quindi lui poi prende questo picnic. He blesses it, he breaks it. Lo benedice, lo rompe. And then he puts a little bit of bread and a little bit of fish in each of 12 baskets. E quindi poi mette un po' di pane e un po' di pesce in ognuna delle 12 ceste. For some reason the disciples wandered round with a basket each. Per qualche ragione vediamo che i discepoli incominciano ad andare attorno con queste ceste. And then Jesus says, "I told you to feed them. Now, take your baskets, get them in lines and feed them." E quindi Gesù dice, "Io vi ho detto di dar loro da mangiare, quindi ora andate." Can you imagine Peter? Ora possiamo immaginare Pietro. Oh no. Oh, mamma mia. This is going to end horribly. Questo andrà a finire proprio male. I've got 1/12 of a sandwich and 1/12 of a sardine. Mi ritrovo un dodicesimo di sardina e un dodicesimo di pane. Okay, first line of 50, straight line please, straight line. Okay, le prime 50 persone che si mettano in fila. Would some of you like to go into Andrew's line? A qualcuno di voi piacerebbe cambiare fila, andate nella fila di Andrea. No, oh dear, this is bad. Mamma mia, questo non funzionerà. Who's going to be first? Chi sarà il primo? My, you're a big shepherd, aren't you? Oh, wow, tu pastore, sei tu il primo. Would you like a little bit of bread or a little bit of fish? Ti piacerebbe un po' di pesce o un po' di pane? You'd like a little bit of both. Okay. Well, we have a problem with both. ti piacerebbe avere entrambi? Okay, potremmo avere un problemino. You don't care, do you? Non ti interessa, sì. Okay, well, look, here's all the bread I've gotten. Here's the fish. Okay, questo è tutto quello che ho. Questo è un po' di pesce. What do you mean you want more? Cosa vuol dire che ne vuoi di più? This is all, look, my basket is empty. Cioè, la mia cesta è vuota, è tutto quello che ho. Oh. Well, there's a little bit more bread, but I'm finished with fish. Okay, c'è un altro po' di pane, però il pesce è finito. Oh. There's a bit of more fish. Oh, okay, c'è ancora del pesce. Next. Il prossimo. Hello. Salve. There's some bread. C'è un po' di pane. There's some fish. C'è un po' di pesce. Would you like some more bread? Vi piacerebbe un po' più di pane? Some more fish. Più pesce. Ketchup. Ketchup. Maionese. Jesus did a miracle. Gesù ha fatto un miracolo. And he did it in the hands of his disciples. E l'ha fatto attraverso le mani dei suoi discepoli. That's how he wants to do it today. E questo è il modo in cui lui vuole operare oggi. He could do it without us. Lui potrebbe fare tutto senza di noi. In fact, it would probably be easier for him. E probabilmente sarebbe più facile per lui. But he chooses to do it with us. Ma lui sceglie di farlo attraverso di noi, con noi. Because he loves us. Perché lui ci ama. And he wants to have intimacy with us. E vuole avere una relazione intima con noi. And you know what's hilarious? E sapete quello che è davvero divertente? Sometimes when a miracle happens, qualche volta quando accade un miracolo, we start thinking it was us. Noi incominciamo a pensare che è grazie a noi. Yes, we fed 5,000 people with a little boy's picnic. We should start a catering company. Sì, sì, noi abbiamo dato da mangiare a 5,000 persone solo con un picnic. Dovremmo lavorare nella ristorazione. Yes, the disciples of Judea, specialists in raising from the dead. I discepoli della Giudea, specializzati nella resurrezione di morti. I have a friend called Anthony. Ho un amico, si chiama Anthony. And he has a little girl. E lui ha una figlia. And one day his little daughter said to him. E un giorno sua figlia gli ha detto. She said, "Daddy, daddy, can we build a fire together?" Papà, papà, possiamo accendere il fuoco insieme? And he said, "Okay, let's do it." E lui le ha risposto, va bene, ok, facciamolo. And they got some little twigs. Quindi hanno messo insieme dei pezzettini di legna. And then they got some bigger sticks. E poi dei pezzettini un tantino più grandi. And they got some paper. Poi hanno aggiunto un po' di carta. And then they lit a match. E poi hanno acceso un fiammifero. And Anthony's little girl knelt like this in front of the fire. E la figlia di Anthony si è inginocchiata davanti al fuoco. And she went like this. E ha fatto così. And honestly, more water went on the fire than air. E onestamente è andata a finire più saliva sul fuoco che aria. But amazingly, the wood caught fire. Ma straordinariamente il fuoco ha preso si è acceso. And she turned to her daddy and she said, "Daddy, daddy, did you see what I did? I started this fire all on my own." E quindi si è girata verso il papà e ha detto, "Papà, papà, ma hai visto? Ho acceso il fuoco tutto, ho fatto tutto da sola." And her daddy said, "What a clever little girl." E il papà le ha risposto, "Ma quanto sei brava." "You are so wonderful. You did that all on your own." Ma sei meravigliosa, hai fatto tutto da sola. And she was like this. E lei era tutta orgogliosa. But what she didn't know. Ma quello che lei non sapeva. Was that while she was kneeling in front of the little flame. È che mentre lei era in ginocchio davanti alla piccola fiamma. Going like this. E faceva così. Her daddy was behind her. Il suo papà era alle sue spalle. And he was going like this. E lui stava facendo questo. That's exactly how it works. Questo è esattamente come funziona. The best we can do is. La cosa, il meglio che possiamo fare è. But our Father is behind us. Ma nostro padre ci ha alle spalle. And he blows his spirit. E lui soffia il suo spirito. His strength in our weakness. E la sua forza nella nostra debolezza. I'm going to finish with one little story. E quindi concludo con questa piccola storia. It's all right, I'm going to sit here. Me too. Oh, you can come join me. 2 years ago, 2 anni fa, in our festival in England, durante un festival in Inghilterra, I was the night before, we saw 200 young people give their lives to Jesus for the first time. La sera prima di questo festival abbiamo potuto vedere 200 giovani dare la loro vita a Gesù. And we were rejoicing because 200 new Christians. E quindi eravamo così felici per questi 200 nuovi credenti. And then the next night I was due to speak. E la sera successiva, si parla di un evento cristiano, io dovevo predicare. And just as the worship was ending, the Lord spoke to me. E nel momento in cui il momento di lode e di adorazione si era concluso, Gesù mi ha parlato. And when I say the Lord spoke to me, I don't mean hear ye, God calling Mike, are you receiving me? E quando io dico che Dio mi ha parlato, non dico SOS, il Signore sta parlando a Mike, chiama Mike. Tablet of stone on its way down, duck. Come se qualcosa fosse sceso dal cielo e mi avesse folgorato. It was a gentle whisper. Ma si parla più di gentile sussurro. And basically he just said, there's someone here called Sam. He said to his friend this morning, if they make an invitation for people to become Christians, I might go forward. E mi ha detto, qui c'è un ragazzo che si chiama Sam, che stamattina ha confidato a un suo amico che se ci fosse stato un invito alla salvezza, lui sarebbe andato avanti, avrebbe accettato. And I thought, you know what, after I preach, I will invite anyone who didn't become a Christian last night to come forward, and I'll say, there might be someone called Sam, you said to your friend this morning, da da da, why don't you come as well? E quindi ho pensato, ok, dopo la mia predica farò l'invito alla salvezza, aperto a tutti, magari potrò dire qui c'è qualcuno che si chiama Sam, hai detto stamattina hai confidato a un tuo amico, bla bla bla, tutta la storia. And the Lord said to me, no, I want you to do it now. Ma il Signore mi ha detto, no, io voglio che tu lo faccia adesso. And I said, oh no, Lord, please, please, no. E ho risposto, no, Signore, per piacere, no, non adesso. What if there's no Sam? Che succede se non c'è nessuno che si chiama Sam? What if there is a Sam and he doesn't want to walk forward in front of 8,000 young people? E se qualcuno c'è che si chiama Sam ma non vuole venire davanti a tutti? But the Lord said to me, I want you to obey me. Do it now. Ma il Signore mi ha detto, io voglio che tu obbedisca alla mia voce, fallo adesso. And you know what? I tried to start preaching, but I couldn't because I knew I was being disobedient. E sapete, io ho provato a fermare la predica, ma non potevo perché sapevo che in quel momento stavo disubbidendo. So I said, sorry everyone, but I think Jesus might be saying, there's someone here, your name is Sam. You said to your friend this morning, if they invite people to come forward to become Christians tonight, I might go. Okay, Sam, we're going to wait for you. Where are you? Why don't you come now? E quindi nel mezzo del tutto ho detto, ok, c'è qualcuno qui che si chiama Sam. Stamattina tu hai detto a un tuo amico che se ci fosse stato l'invito alla salvezza, tu l'avresti accettato e saresti venuto avanti. Se ci sei, noi ti stiamo aspettando. Well, nobody moved. E in quel momento non si è mosso nessuno. I died inside. E io stavo morendo dentro. Oh, please, Lord, please. Please, how do I get out of this now? Per piacere, Signore, adesso come ne esco da questa situazione? And I had 8,000 pairs of eyes looking at me. E avevo 8,000 occhi che mi stavano fissando. I was so desperate. I did what I always do when nothing else will work and I'm completely desperate. E ero così disperato che ho fatto quello che faccio sempre in questi momenti dove non ho idea di cosa fare. Sono davvero disperato. I prayed for the second coming. ho cominciato a pregare per la seconda venuta di Cristo. I said, Lord, return now. Ha detto, Signore, ritorna adesso. End the world now. poni fine al mondo adesso. You're going to do it sometime. If you really love me, you'll do it now. Tanto lo devi fare. Se davvero mi ami, fallo adesso. But of course he didn't do it then, otherwise we wouldn't be here, would we? Chiaramente non l'ha fatto allora, altrimenti non saremmo qui oggi. And I waited. E quindi ho aspettato. And then after what seemed like a long time, this boy got up. E quindi dopo quello che è sembrato davvero un tempo interminabile, and questo ragazzo si è alzato. And he started walking until he got to there. E ha incominciato ad avvicinarsi. And we could see he was shaking, he was trembling. E potevamo vedere che era stava tremando. I said, "Is your name Sam?" E gli ho chiesto, "Ti chiami Sam?" He said, "Yes." E lui ha risposto, "Sì." Did you say that to your friend this morning? Hai detto questo al tuo amico questa mattina? Yes. Sì. Are you ready to give your life to Jesus now? Allora sei pronto ad arrendere la tua vita a Gesù adesso? Yes. Sì. In front of 8,000 people. Davanti a 80,000 persone. We led him in prayer and he gave his life to Jesus. Davanti a 8,000 persone lui ha reso la sua vita a Gesù. And then as he walked back, his friend, we saw his friend running up to him and they were hugging each other and crying. E poi abbiamo visto il suo amico che gli ha corso incontro e si sono abbracciati. And I said to the Lord, "Lord, why did you have to do it then? Why couldn't we do it at the end? Why do we have to make it so theatrical? You know I have a heart condition." E ho chiesto al Signore, "Signore, ma perché hai voluto farlo in questa maniera? Perché volevi farlo in maniera così teatrale? Tu sai che io ho problemi di cuore." And you know, the Lord answered me when Sam said amen. E il Signore mi ha risposto nel momento in cui Sam ha detto amen. 8,000 young people stood up and started clapping and cheering the Lord and Sam. Perché in quel momento 8,000 ragazzi si sono alzati e hanno incominciato a battere le mani, ad acclamare in festa. And the Lord said to me, "That's why." E il Signore mi ha detto, "Questo è perché." Because you were all rejoicing over 200 last night. Perché voi vi stavate stavate gioendo per la vita di 200 persone ieri. And I wanted to show you that I will stop a whole meeting for one Sam. E io vi volevo mostrare che è importante per me fermare tutto l'incontro per la vita di una persona. I would love to tell you I was full of faith. E mi piacerebbe dirvi che il mio cuore era pieno di fede. But it was God's power in my weakness. Ma si è trattato della potenza di Gesù nella mia debolezza. Jesus wants to use you. Perché Gesù vuole usarsi di ognuno di noi. To change the world. Per cambiare il mondo. The best you'll ever do is. Il meglio che noi possiamo fare è. But he will blow into life. Ma lui soffia. Vita. He will say, "Lazarus, come forth." E lui che dirà, "Ok, Lazzaro, esci, vieni fuori." He will feed a multitude with a little boy's picnic. Lui può dare da mangiare a una moltitudine con il picnic di un ragazzino. And he wants to do it through you and me. E lui vuole farlo attraverso di te e attraverso di me. And so, Father, now, in the name of Jesus, e quindi, Padre, adesso, nel nome di Gesù, we ask that you send your Holy Spirit. Ti chiediamo che tu possa mandare il tuo Spirito Santo. Holy Spirit, would you move in this room? Spirito Santo, muoviti in questa stanza. Empower us. Equipaggiaci. Be strength in our weakness. Sii forte nelle nostre debolezze. Meet with us. Incontraci. Thank you, Lord. Grazie, Signore. I just wait for him. E adesso lo aspettiamo. Thank you, Lord. More of you. More of you. Di più di te. Di più di te, Signore. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grazie, Gesù. Now there are some of you here already. You're sensing God's presence resting on you. C'è qualcuno di noi qui che sta già sentendo la presenza di Dio su di te. If that's you, could you just quietly where you are just stand? Se tu stai sentendo la presenza di Dio su di te, puoi silenziosamente alzarti. And Lord, as they stand, I pray that you would increase your anointing on them. E mentre si alzano, Gesù, io ti prego che tu possa aumentare la tua unzione su di loro. That's it. More, Lord. Di più, Signore. More, Lord. Di più. More, Lord. More of you. Those who are di più di te, near, those who are standing, just put a hand on their shoulder. Chi si trova vicino a queste persone, potete mettere una mano sulla spalla. And Lord, I pray that you would now release your gifts. E Gesù, io ti prego che tu adesso possa dare i tuoi doni. Release boldness, Lord. Dare il tuo coraggio. Release compassion. Fai scattare più compassione. Thank you, Lord. Grazie, Gesù. Thank you, Lord. Grazie, Gesù. Thank you, Lord. Now, this is stirring in me strongly. Io sento questo molto, molto forte. I hope this is right. E spero che questo sia giusto, sia vero. Those of you who are 25 and under, could you just come to the front because we want to pray for you? Per chi è più giovane, più piccolo di 25 anni, potete venire qui davanti. That's it. God wants to meet with you. That's it. That's it. That's it. And others, let's come back. That's it. And others just come and be ready to pray. E tutto il resto può essere pronto a pregare, può venire per pregare. If the band are at the back, if you want to come out, se anche il worship team può venire. Now, guys, God wants to use all of us. I'm an old man and God hasn't finished with me. Dio vuole usarsi di ognuno di voi. But right now he's wanting to anoint this generation of young people. E lui vuole adesso ungere questa generazione di persone giovani. Now Lord, fill them with compassion. Gesù, riempi ognuno di loro con la tua compassione. Fill them with boldness. Riempili e rendili coraggiosi. Fill them with your power. Riempili della tua potenza. Give them visions and dreams, O God. Dai a loro visioni e sogni. Let it come. Let it come. Those of you that are older, come and pray for them. Per chi è più grande, che venga a pregare. Thank you, Lord. More of you. More of you. Grazie, Signore, di più di te. More of Jesus. More of Jesus. Di più di Gesù. More of Jesus. Di più di Gesù. More of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let it come. Let it come. Let it come. Let it come. Wait for him. Wait for him. And there are some of you, you know God's call on your life. You want to serve him, but you didn't think that your life could make a difference. E c'è qualcuno di voi che tu sai qual è la chiamata di Dio per la tua vita e vuoi servire Gesù, ma hai pensato che la tua vita non potesse fare alcuna differenza. He's gonna blow over you ma and lui you. Sta soffiando il suo more, spirito Jesus, su di voi. Now don't be afraid of what is beginning. It's okay. Non avere paura di quello che sta per incominciare, va tutto bene. And for some of you there's a real compassion coming on you. E per alcuni di voi c'è un forte senso di compassione. And it's his compassion. Ed è la sua compassione. And that's why there's tears. Ed ecco perché ci sono lacrime sul tuo volto. This isn't for you. Questo non That's è per it. Te. That's the Lord. That's the Lord. Non è da te, è dal Signore. That's the Lord. That's the Lord. Questo è il Signore. That's the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grazie, Signore. Thank you, Lord. Is there somebody here you're visiting and you're from a small church and you've been wondering, Lord, how do I take this back to my church? C'è qualcuno qui, tu sei qui in visita, vieni da una piccola chiesa e ti stai chiedendo, Gesù, ma come posso riportare tutto questo a casa? And I think you just prayed a few moments ago, Lord, I need you to show me, I don't know how to do this. E hai pregato giusto qualche momento fa, Signore, ho bisogno che tu mi mostri come fare, perché io non lo so fare. I long for things to be different in my church. Io voglio che le cose cambino nella mia chiesa. But I don't know how. Ma non so come portare questo cambiamento. Are you here? Sei qui? Who said that? Chi ha detto come forward. Questo? Vieni come davanti. Forward. Okay, there's actually a few of you prayed that. Two or three. Could, ce ne sono due o tre. Could others in this church come and pray for these guys? Che qualcuno Just come della, and lay della nostra chiesa possa andare a pregare per queste tre ragazzi. That's it. You stay there. He'll show you. He'll guide you. Lui ti mostrerà e lui ti guiderà. And come. He's going to fill you. E lui ti riempirà. Lord, just do it. Just do it. Gesù, fallo adesso. Give them wisdom. Give them boldness. Dai a loro coraggio. Dai a loro saggezza. Lord, just may you breathe on them, Lord, in a new way. Che tu possa soffiare su di loro in un modo nuovo. And take away fear of failure. E porta via, togli via la paura take di, away del fear fallimento. Of failure. La paura del fallimento, portala via. We thank you, Lord, that you work Signore, through ordinary people like us. Che tu operi attraverso persone ordinarie, proprio come noi. Thank you, Lord. Grazie, Gesù. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're going to begin in a moment to worship. Cominceremo fra un po' ad adorare. As we wait on the Lord. Mentre aspettiamo per il Signore. And you know he's doing it. We can't do it. E sapete, lui è lui che lo fa, non noi. All we're doing is rolling tombstones away. Tutto quello che noi possiamo fare è spostare la pietra. And taking grave clothes off. E togliere gli indumenti di morte. He brings the life. Ma è lui che porta la vita. Is there somebody here your sister died of a disease, of cancer, I think it is. C'è qualcuno qui e tua sorella è morta a causa di un tumore, di un cancro. And also one of your parents died of cancer. E anche uno dei tuoi genitori è morto a causa di un tumore. And every now and then you have this fear that you're going to get it. E spesso hai paura che possa succedere anche a te. And it overwhelms you. E ti senti sopraffatto da questo. And you're almost expecting it. E quasi te l'aspetti. And who is that? Chi è? Sei qui. Is that okay? Okay, this okay. Can we pray for these guys? Okay, possiamo chi è attorno può pregare per queste persone. That is not God's will for you. Perché questa non è la volontà di Dio that per te. That is not God's will for you. Non è quello che Dio vuole per te. God, we in Jesus' name we break the power of that fear. Nel nome di Gesù noi sconfiggiamo questa paura. And we speak life. E parliamo e confessiamo vita e salute. And wholeness. E benessere. And God's will is not that you live in fear. E la volontà di Dio non è che tu viva nella paura, but that you walk in trust. Ma che tu cammini in fiducia. Thank you, Lord. Grazie, Signore. Thank you, Lord. Let's worship as we pray. Adoriamo insieme.